We have had some technical problems. Due, zero, due, quattro. 2024. 2024. In questa puntata di 2024, l'accordo tra Nokia e Microsoft per fronteggiare Apple e Google. Tra qualche mese vedremo il primo smartphone made in Finland con Windows Phone. Nokia will adopt Windows Phone as our primary smartphone strategy. Per Nokia la possibilità, come avevano accennato alcuni, di andare con Android, secondo me era proprio impossibile. Con Microsoft almeno sono diventati il partner di preferenza. Pagare col cellulare. Oggi è possibile acquistare molti servizi passando dal nostro telefonino con carta di credito o SMS, ma è sempre più vicino il giorno in cui la tecnologia di prossimità renderà tutto più semplice e immediato. Il cellulare contiene quindi le credenziali di questi strumenti di pagamento. Passandolo vicino, ma intendiamo veramente vicino a uno strumento di lettura, il lettore legge queste credenziali e di fatto abilita il pagamento. E poi il punto sul mercato dell'elettronica di consumo. Vivremo un anno con prezzi in ulteriore calo? La nostra rubrica dedicata ai videogiochi e l'appuntamento in collaborazione con National Geographic. Oggi parleremo di dighe partendo da quella brasiliana di Itaipu. È lunga 7 km ed è alta quanto un edificio di 65 piani. Di Enrico Pagliarini. Anche oggi in diretta su Radio 24, il nostro numero verde 800 24 0024. Chiamateci per parlare con noi, per le vostre domande, per le vostre considerazioni. I temi li avete sentiti poco fa. Io sono Enrico Pagliarini, in regia per la parte tecnica Paolo Corleoni. Prima dei nostri approfondimenti, il nostro gioco per vincere un videogame con Stefano Gallarini. Video game. Eccoci come sempre pronti a parlare di videogiochi, anche se l'inizio della puntata è dedicato alla soluzione del gioco che vi coinvolge, soluzione della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete come sempre superare i primi due livelli. Ed ecco le risposte. Livello 1. La protagonista delle vicende che stanno coinvolgendo il presidente del consiglio. La risposta era Ruby. Livello 2. Il peso senza la tara. La risposta era netto. Mettendo insieme le due parole, come si fa in una charada, si ottiene rubinetto. E il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Il mestiere di chi lo ripara. La risposta era ovviamente idraulico. Complimenti quindi a Fabio da Teramo, che ha trovato la soluzione e che riceverà l'accessorio Kinect e due giochi offerti da Microsoft. Prima di venire al gioco di questa settimana voglio ringraziarvi per le tantissime risposte che arrivano via mail e che arrivano anche con la risposta giusta. Però siccome chi ascolta la trasmissione in podcast si sente penalizzato perché ovviamente arriva tardi con le risposte, vedremo in futuro di rendere tutto molto più difficile. Ma veniamo al gioco di questa settimana. Come sempre dovrete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio il sensore Kinect e due giochi Microsoft per Xbox 360. Livello 1. È la quarta su 7. Ora preparatevi a lanciarvi nello spazio. Destinazione Aegis VII. Isaac, sei lì? Rispondi, Isaac. Mio Dio, mi dispiace, Isaac, per la differenza di fuso. No, no, ti richiamo tutto più okay, tardi. Tutto ok. Come stai? Bene. Avevi ragione, Isaac. L'Ishimura è fantastica. Sono fortunata per stare servizio a bordo. L'Ishimura, di cui parla la fidanzata di Isaac, è una nave spaziale in orbita attorno al pianeta Aegis VII, inviata dalla Concordance Extraction Corporation per raccogliere minerali. Siamo nel 26esimo secolo e la vita della nostra Terra è subordinata al reperimento di materie prime nello spazio. Almeno così ci racconta il primo episodio di Dead Space, il videogioco horror di fantascienza, di cui oggi vi racconto il seguito, Dead Space 2. Nel primo episodio viene rinvenuto il marchio, un misterioso manufatto alieno che provoca allucinazioni a chi ne viene in contatto e che induce a uccidere. Inoltre si insediano nella nave spaziale i necromorfi, alieni mostruosi capaci di far resuscitare i morti e renderli quasi invincibili. In questo seguito, Dead Space 2, il protagonista, Isaac Clarke, si risveglia disorientato nell'ospedale di una gigantesca stazione spaziale, dove trova qualcuno disposto ad aiutarlo. Isaac? Isaac, riesci a sentirmi? Dina, ho trovato Isaac Clarke. Ripeto, l'ho trovato. Ottimo lavoro, Franco. Fa attenzione, è rimasto fuori un sacco di tempo. Oh, sì. Bene, bene. Piano, piano, piano. Ti tireremo fuori da questa camicia di forza. Dove sono? Fra poco lo svelerò, ma prima la seconda parte del nostro gioco che vi permette di portarvi a casa l'accessorio Kinect con due giochi offerti da Microsoft. Livello 2. Il fratello della mamma. Torniamo a Dead Space 2. Avevamo lasciato il protagonista Isaac Clarke intontito e alle prese con Frank e Dina, due medici che si dicono in grado di curare le sue allucinazioni. Ma i necromorfi sono in agguato. So che ora ti senti confuso. Posso spiegare tutto, ma devi fidarti di me. Ascolta, sei in grave, grave pericolo. Ecco, sembrava troppo bello. Frank è morto e Isaac, costretto in una camicia di forza, deve scappare dall'ospedale, incontrare Dina, scoprire cosa si c'era dietro il marchio e dare prova dell'esistenza concreta di Dio. Realtà o allucinazione? Il survival horror prodotto da Electronic Arts, disponibile per Xbox, PlayStation 3 e PC, vi spaventerà a dovere e vi darà filo da torcere per districare la matassa e avere la meglio contro i necromorfi. Dead Space 2 è un ottimo titolo, consigliato soprattutto a chi ama il genere horror unito alla fantascienza, a chi non disdegna qualche scena splatter, ai maggiorenni e a chi desidera sconfiggere le proprie paure sterminando alieni davvero mostruosi e cattivissimi. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco. Il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa il sensore Kinect con Kinect Adventure e un altro gioco per Kinect offerti da Microsoft. Mostro di fine livello. Qual è il suo ministero? La risposta a videogiochi@radio24.it. E adesso la classifica. Quinto posto per Just Dance, il gioco che fa ballare tutti a patto che abbiano una Wii. Quarto posto ancora per la Wii in primo piano con Wii Fit Plus, il titolo che mantiene in forma tutta la famiglia. Terzo posto per Little Big Planet 2, il gioco a piattaforme che vi farà temere gli aspirapolvere in esclusiva per PlayStation 3. Secondo e primo posto per il gioco più spaventoso del momento, Dead Space 2, in versione normale e in edizione limitata. Un saluto da Stefano Gallarini. E adesso parliamo, come vi abbiamo annunciato nel nostro sommario, dell'accordo annunciato tra Nokia e Microsoft. Nokia will adopt Windows Phone as our primary smartphone strategy. Nokia utilizzerà Windows Phone, il sistema operativo di Microsoft, dice Stephen Elop, l'amministratore delegato di Nokia ex Microsoft, e questo ci suggerisce qualche cosa. È stato chiamato a cambiare le strategie dell'azienda finlandese a settembre. Non si sa ancora quando uscirà il primo Nokia Windows, ma è certo che Symbian verrà gradualmente abbandonato. Entrambe le aziende metteranno qualche cosa in questo nuovo ecosistema. Sul concetto di ecosistema hanno insistito molto i manager, tutta la parte ad esempio di mappe della Nokia, Ovi Maps, verrà integrata nei servizi online di Microsoft all'interno di Bing, ma anche il numero uno di Microsoft ha spiegato che si andrà oltre. Not only Windows and Office, Bing, Hotmail and Xbox. Questo è Steve Ballmer, l'amministratore delegato della Microsoft, che adesso non ci sarà solo Windows Phone, ma anche Office, Xbox, Bing, il motore di ricerca, Hotmail, eccetera, eccetera. Ma cosa dicono gli esperti, gli analisti di questo accordo? Vedremo naturalmente poi la risposta del mercato, ma abbiamo fatto una chiacchierata su questo con Carolina Milanesi, che è responsabile della divisione mondiale sui dispositivi mobili all'interno di Gartner. Le due compagnie che hanno effettivamente inventato il mercato degli smartphone, no? Nokia da una parte e dall'altra parte Windows, che è passato dai famosi PDA allo smartphone e che erano nemici quasi acerrimi all'inizio, che adesso si vedono a dover combattere con dei nuovi giocatori nel mercato, che sono Apple e che sono Android, e che si vedono alla fine doversi unire per unire le forze e combattere questa competizione che è diventata effettivamente fortissima. Stephen Elop ha detto che il gioco è un gioco a tre, considerando appunto Apple da una parte, Google dall'altra. Sono solo tre i player o vanno considerati altri, ad esempio Rimac o BlackBerry? Ma tanti hanno fatto questa osservazione di perché non è stato menzionato RIM. Secondo me la ragione principale è perché RIM viene ancora visto come principalmente un'azienda che si focalizza su enterprise. Sì, hanno fatto del movimento a livello di quote di mercato nella parte consumatore, senza dubbio, però non siamo ancora a quei livelli di un Android e Apple, anche proprio come ecosistema di servizi intorno al telefono. Una persona, un consumatore che prende un BlackBerry lo prende principalmente per fare email o messaggistica. Quindi sostanzialmente da parte tua il giudizio è positivo o comunque non c'erano molte altre vie per entrambe le aziende? Ma secondo me non c'erano molte altre vie, onestamente. Per Nokia, se guardi al deal in se stesso, forse sembra più apparente e immediato il quanto guadagna Microsoft che non Nokia, ma per Nokia la possibilità, come avevano accennato alcuni, di andare con Android, secondo me era proprio impossibile. Con Microsoft almeno sono diventati il partner di preferenza, con Android questo non sarebbe successo. Secondo me la cosa interessante è vedere adesso cosa faranno HTC, Samsung e LG, che sono usciti proprio prima di Natale con i nuovi prodotti basati su Windows Phone 7, perché vista la collaborazione così intrinseca con Nokia, secondo me questi venditori non saranno molto a collaborare con Microsoft in futuro. Sì, quindi potremo vedere molto probabilmente un'esclusività o una quasi esclusività di Nokia con Windows Phone 7, 8, 9, eccetera, eccetera. Voi questa settimana avete comunicato i nuovi dati che fanno il punto della situazione del mercato. Beh, questo è un mercato che sorprende anno dopo anno, perché siamo arrivati, abbiamo superato il miliardo e 600 milioni di telefonini, tra telefonini tradizionali e smartphone venduti. In generale, comunque, qual è il vostro giudizio sul mercato? Come vanno le cose? Come si stanno comportando i produttori? Direi soprattutto dal lato sistemi operativi, visto che oramai i giochi si fanno sul software, sugli ecosistemi che girano attorno a questo software. Esattamente questi due punti finali sono state le cose che sono scaturite principalmente dai nostri dati. Uno, che gli smartphone sono cresciuti più del 70% anno con anno e adesso rappresentano il più del 50% del mercato europeo e più del 40% del mercato americano. E quindi dei volumi adesso che sono molto importanti, per cui non è solo un discorso di hardware, ma è proprio un discorso di ecosistema in generale. L'altra cosa interessante è anche vedere che sotto il periodo natalizio in particolare abbiamo visto che la fascia alta di mercato che tira ancora molto, e quindi venditori come RIM, venditori come Apple, telefonini di fascia più alta basati su Android, sono poi quelli che hanno venduto di più. Dai dati che voi avete elaborato, come si comporta Android, che molti, ma del resto anche voi qualche mese fa dicevate sarebbe diventato numero due e forse in prospettiva numero uno? Come stanno andando le cose? La crescita di Android di quest'anno è stata più dell'800%, ha avuto veramente ha sfondato, ha avuto una crescita fenomenale. perché oltre al successo che aveva avuto fin dall'inizio in America, adesso c'è anche trazione in Europa e quindi abbiamo visto dei venditori come Samsung adesso effettivamente incominciare a fare volumi più interessanti, tanto è vero che in due trimestri Samsung è diventato con il Galaxy S il venditore più con la quota di mercato più grande all'interno di Android, seguito abbastanza a ruota da HTC. 2024. Torneremo a incontrare Carolina Milanesi, che è sempre molto interessante da ascoltare per le sue analisi, anche perché ha una posizione di tutto rispetto, è responsabile mondiale della divisione Mobile Devices all'interno di Gartner. Dicevo, la rincontreremo anche la prossima settimana, perché da lunedì a Barcellona ci sarà il Mobile World Congress, appuntamento molto importante per il mercato della telefonia mobile. Io non mi aspetto grandissimi annunci, come dicono gli americani, nessun wow announcement, quelli appunto molto interessanti, però è sempre un appuntamento importante per fare il punto del mercato. Allora, la prossima settimana tra l'altro saremo anche in diretta dalla BIT, fiera internazionale a Milano del turismo, e parleremo di telefonia mobile. Il nostro numero verde per parlare di questo, ma anche tra poco del mercato dell'elettronica di consumo, partiremo facendo una domanda: ci dobbiamo aspettare prezzi in netto calo quest'anno? Dicevo, il nostro numero verde, chiamateci, 800 24 0024, gli sms 349 238 6666. Parliamo adesso di pagamenti elettronici tramite cellulare, perché sono in arrivo importanti novità, anche se già oggi esistono molti modi per pagare tramite telefonino. Alessandro Perego è docente al Politecnico di Milano e responsabile dell'osservatorio Mobile Payment della School of Management del Politecnico di Milano. Con lui abbiamo parlato di pagamenti elettronici, partendo da quello oggi forse più semplice, cioè gli SMS. Significa che uno, per alcuni servizi che sono particolarmente semplici, può utilizzare l'SMS per chiudere sostanzialmente la fase di pagamento. Facciamo degli esempi, che la cosa è più semplice: il pagamento della sosta, ad esempio, o il pagamento di un biglietto nel trasporto pubblico locale. In questo caso la scelta del servizio uno l'ha già presa, non sta usando il cellulare per scegliere il servizio che vuole comprare. Usa il cellulare esclusivamente per chiudere il pagamento. Nell'esempio della sosta si deve immaginare che l'operatore che gestisce la sosta, una volta che l'utente si è accreditato, gli dà ad esempio una vetrofania o una tessera che lo identifica, che la persona espone nell'auto, e la persona poi, nel momento in cui sceglie il luogo del pagamento, invia un SMS che di fatto attiva la sosta, e poi un SMS per disattivare la sosta. Con questa operazione estremamente semplice, l'operatore può, la persona può risparmiare un sacco di tempo. Immaginate nella maggior parte dei parcheggi non dotati di sistemi di pagamento. Sì. Diciamo, a Milano ci sono ancora delle persone, pensate quanto siamo arretrati, delle persone che sono per la strada e ti vendono ancora il gratte sosta. Esattamente. Quindi in questo caso si potrebbe utilizzare l'SMS, ma è da un po' di tempo che esistono questi servizi. Si sono evoluti, ce ne sono disponibili in Italia? Perché appunto uno pensa a Milano e dice: ma come, a Milano che non ci sono ancora? No, in realtà a Milano ci sono, cioè in alcune aree. Ad esempio, esiste un'associazione che si chiama Telepark, che offre il servizio di pagamento della sosta in 35 città in Italia. Quindi è un servizio che già esiste. È poco pubblicizzato, questo dobbiamo dire la verità, e questo è un peccato, perché questo sistema è un sistema interessante per i cittadini. Un po' più arretrati siamo nelle applicazioni sulla bigliettazione per il trasporto pubblico locale, dove esistono due o tre applicazioni interessanti in Italia, mentre all'estero ci sono casi più interessanti. Tipo? Ad esempio c'è il caso PlusDial, società finlandese che opera un po' nel nord Europa. Ad esempio è molto forte nella città di Stoccolma, dove una 40% circa dei biglietti ordinari, biglietti singola corsa, sono acquistati attraverso questa modalità, quindi con una modalità molto semplice, SMS per l'acquisto del biglietto. Ed è una cosa estremamente interessante, il cui punto di forza è proprio la semplicità. D'altra parte, se voi parlate con gli operatori di questa società, vi dicono che la chiave vincente, il fattore critico di successo, è proprio l'estrema semplicità. Lo strumento deve essere semplice. Sì. In questo caso si appoggia anche alla ricarica telefonica, quindi è immediato. Quindi diciamo, io mi registro la prima volta, dopodiché ogni volta mando un SMS e il sistema di pagamento è il classico, o la carta di credito, il conto bancario, oppure la ricarica telefonica. Esattamente. Ecco, invece, l'evoluzione... Ti faccio un'altra domanda invece sul numero, così ti faccio dare anche qualcosa. Prima di passare ad un'altra evoluzione sicuramente tecnologicamente più interessante, a proposito di successo di questi sistemi, in Italia quanti ce ne sono e quanto sono diffusi? In Italia abbiamo censito circa un centinaio di servizi che lavorano secondo questa modalità che abbiamo appena raccontato, prevalentemente nell'ambito del pagamento della sosta, della bigliettazione del trasporto pubblico locale, pagamento di taxi, acquisto di ski pass, ad esempio, anche se sono le ricariche telefoniche quelle che fanno la parte del leone, anche da un punto di vista di valori in gioco. Il mercato vale circa 200 milioni di euro in questo momento, però dobbiamo dire che la gran parte è legato alla ricarica telefonica. Quindi vale ancora poco. Vale ancora poco, sicuramente vale ancora poco, ci sono margini di crescita, è anche vero che la modalità che abbiamo appena raccontato ha degli ambiti applicativi abbastanza specifici nei quali è una modalità interessante. Sì. Dicevo, c'è un'altra evoluzione forse molto più interessante o comunque interessante, tutti gli operatori stanno guardando a questa altra evoluzione, tutti sono pronti già da anni e quasi tutti gli anni si dice, ah, quest'altro anno sarà l'anno in cui arriveranno i pagamenti elettronici di prossimità. Detto in estrema sintesi, per semplificare il concetto, è come che io con il mio telefonino sostituissi la moneta vera e propria, cioè arrivo dal tabaccaio oppure dal giornalaio per comprare il quotidiano, io passo il mio telefonino su un lettore, me ne vado col mio quotidiano e ho pagato. Questo in estrema sintesi, però diciamo qualche cosa in più, di cosa stiamo parlando? Beh, la descrizione è già abbastanza accurata, sì, e rende molto l'idea, quindi il concetto è che sul cellulare, il cellulare emula i principali strumenti di pagamento, ad esempio le carte di credito, di debito o qualsiasi tipo di carta prepagata. Passando col cellulare, il cellulare contiene quindi le credenziali di questi strumenti di pagamento, passandolo vicino, ma intendiamo veramente vicino, perché ci deve essere una chiara volontarietà dell'atto, vicino a uno strumento di lettura che assomiglia ai POS che sono tipicamente presenti nella maggior parte dei punti vendita, che in questo caso funzionano in una modalità contactless, quindi senza contatto. Senza contatto. Cioè io passo sopra, vicino. Cioè. Esatto, il lettore legge queste credenziali e di fatto abilita il pagamento. Ma la cosa interessante è che per pagamenti di importi limitati, diciamo micro pagamenti, per capirci dell'ordine di grandezza di importi sotto i 25 euro, non è necessario, per scelta mutua di ambo le parti, inserire il PIN. E quindi il pagamento è estremamente veloce. Diciamo che l'elemento che rende interessante questo modello è proprio la velocità, che può ridurre quindi il tempo di attesa delle persone in qualsiasi tipo di esercizio commerciale, con benefici per il consumatore e per il gestore dell'esercizio commerciale. Immaginatevi che tipo di riduzione in termini di personale anche alle casse, ma soprattutto tempi di attesa delle persone e anche possibilità di non perdere delle mancate occasioni di vendita. Immaginatevi ad esempio un autogrill in autostrada. Quante volte qualcuno di noi non ha fatto degli acquisti o non ha comprato delle cose perché era arrivato un pullman di turisti e quindi c'era una coda pazzesca alla cassa. Sì, quindi sì. Uno non ha comprato semplicemente perché non aveva voglia di aspettare il tempo per chiudere l'acquisto. Questo è interessante, però se io domandassi quanti servizi esistono, zero, giusto? In Italia zero, in Italia però. In Italia. Guardiamoci attorno, dove dobbiamo andare? Per trovare un sistema che già opera secondo questa modalità in maniera massiva dobbiamo andare in Giappone. Cosa c'è in Giappone? Ma in Giappone di fatto è possibile usare questa modalità per comprare qualsiasi cosa. Quindi per comprare il giornale, l'esempio che tu hai fatto prima, per comprare il caffè, quindi per effettuare i classici micropagamenti, alle vending machine, ma anche per pagare la spesa al supermercato. In questo caso il cellulare di fatto sostituisce la carta di credito, quindi qualsiasi occasione di acquisto. Bisogna dire che le condizioni al contorno in Giappone erano molto favorevoli a questo. C'è un operatore che di fatto in Giappone ha svolto il ruolo di banca, il ruolo di operatore telefonico, e ha anche potuto immettere sul mercato un numero di cellulari, cioè di dispositivi, dotati della tecnologia che serve per fare questo. Certo. Condizioni favorevoli che invece in altri paesi richiedono l'accordo di molteplici soggetti. Certo, e poi sono giapponesi. E questo aiuta. Paese straordinario perché diciamo per tanti versi è simile all'Italia, nel senso che c'è un'età media molto elevata. Sono paesi di vecchi, però tecnologicamente straordinario, con cose pazzesche. Spieghiamo però, per far tutto ciò, cosa serve? Cioè il mio telefonino, così come qua adesso è spento quello che abbiamo qua in studio, ma questo telefonino non potrebbe fare il pagamento. Che tipo di evoluzione necessita il telefonino? Sì. Il telefonino deve avere a bordo una tecnologia di comunicazione di prossimità che prende il nome di Near Field Communication. è una tecnologia già disponibile di fatto, ancora non diffusa sui terminali che sono ad oggi in circolazione. Bisogna anche dire che la maggior parte dei produttori di cellulari ha già fatto molteplici annunci che questa tecnologia sarà a breve disponibile. Quindi è un passaggio tecnologico semplice in realtà da fare, basta volerlo, basta che si sviluppi la domanda per questo tipo di soluzioni. Sì. Di fatto, diciamo, nel telefonino c'è un chip che è annegato dove? Il cellulare deve avere un chip che consente di fare una comunicazione basata sulla tecnologia che ho appena raccontato e un'antenna che serve per fare questo tipo di comunicazione. Di fatto poi sul cellulare va anche portata un'applicazione all'interno della SIM del cellulare. E di questo si occuperà l'operatore telefonico. Di fatto sulla SIM del cellulare vanno portate le credenziali che identificano l'utente e identificano lo strumento di pagamento che l'utente intende utilizzare. Di fatto, insomma, il mio telefonino diventerebbe una carta di credito più, ancora più evoluta. Ma la bellezza del modello è legata al fatto che il cellulare si assomiglierebbe a una carta di credito, ma di cellulari ce ne sono in Italia, ad esempio, o di utenti di cellulari, ce ne sono in Italia il doppio di utenti di carte di credito o di, o di pagamento. Sì. Il cellulare è un oggetto portabile, esattamente come una carta di credito, e l'altra cosa interessante è che il cellulare è uno strumento interattivo e quindi si possono fare molte più cose di quelle che non si possono fare usando una carta di credito. Per esempio scegliere lo strumento di pagamento preferito, oppure non gestire esclusivamente la fase di pagamento, ma gestire con il cellulare anche le fasi a monte del processo di acquisto, ad esempio la scelta del prodotto. Da questo punto di vista c'è un esempio molto interessante che rende l'idea. Caso McDonald's, sempre in Giappone. In questo caso gli utenti ricevono sul cellulare un coupon con degli sconti, con delle particolari promozioni. Mentre sono in coda, attraverso quei coupon scelgono che cosa vogliono comprare. Quando arrivano alla cassa, di fatto comunicano contestualmente l'ordine e pagano. Paolo Corleone, che è il nostro tecnico, dica arrivederci. Però sarebbe molto bello. E ecco, sarebbe molto bello, ma quanto manca a questo ecosistema? Cioè, qualche operatore bancario, telefonico, qualche produttore di telefoni, cioè, tutti stanno lavorando, ma non si vede ancora nulla. In realtà abbiamo parlato del Giappone e dell'Italia. In realtà in altri paesi europei qualche sperimentazione si sta facendo. Per esempio nella città di Nizza, in Francia, c'è una sperimentazione abbastanza significativa di questo sistema, e anche in una cittadina vicino a Barcellona. Quindi delle sperimentazioni in cui questo modello si sta mettendo alla prova ci sono. La cosa interessante, la cosa necessaria, diciamo, per rendere applicabile questo modello è mettere insieme diversi attori. Quindi diversi attori vuol dire operatori bancari, vuol dire operatori telefonici e vuol dire un sistema di esercenti. Voi non fate previsioni su quando arriverà il primo servizio in Italia? È estremamente difficile farlo, però in Italia nel corso di quest'anno c'è la sperimentazione, diciamo, di uno step intermedio, di un'applicazione intermedia, che è l'uso delle carte contactless, quindi carte non a contatto. Sì. Una serie di operatori bancari sta diffondendo e provando a utilizzare queste carte a contatto. Questo è un primo passaggio importante nella direzione. È estremamente difficile dire se ci vorranno 2, 3, 4, 5 anni. Diciamo, i tempi possono essere questi. Dopo le carte, diciamo, l'infrastruttura di base sarebbe pronta, il telefonino è un attimo. Esattamente questo. Le carte metteranno in gioco, renderanno disponibile l'infrastruttura di base. C'è chi ci scrive via SMS e ci consiglia uno dei servizi, ma come abbiamo detto durante le interviste, ne abbiamo, almeno il Politecnico, la School of Management del Politecnico di Milano ne ha elencati un centinaio in Italia. Non possiamo fare la lista di tutti e 100 i servizi che sono attivi in Italia per pagare il parcheggio, per pagare il taxi, eccetera eccetera. Tra pochi secondi il giornale radio, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta. Tra poco parleremo del mercato dell'elettronica di consumo. 2024. Riprende 2024, questa è la seconda parte, sono le 16:08 minuti, io sono Enrico Pagliarini, il nostro numero verde 824 0024 per parlare con noi. Oggi cercheremo di raccontarvi che cosa sta succedendo nel mercato dell'elettronica di consumo, incontrando una parte importante, molto importante di questo mercato. Saluto prima Gianfranco Giardini, nostro esperto 2024, direttore del magazine online dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dicevo, oggi noi cercheremo di raccontare e parlare con una parte del mercato importante, perché noi parliamo spesso, quasi tutte le settimane, dell'elettronica di consumo, di telefonini, di tablet, di lettori MP3, eccetera, eccetera. Parliamo poco con chi vende queste cose. che è una parte, insomma, fondamentale della catena. Beh sì, noi ci concentriamo spesso sulla funzionalità del prodotto, sulle caratteristiche tecniche, sulle possibilità di interconnessione, ma bisogna anche riuscire ad arrivare all'acquisto ovviamente di questi prodotti, sia in termini di possibilità d'acquisto, quindi in termini di spesa, che in termini anche di accesso a questi prodotti, perché molte volte alcuni prodotti anche di cui parliamo, anche molto interessanti, lo diciamo spesso anche in trasmissione, magari non si trovano così facilmente, semplicemente perché appunto c'è una domanda che non si esprime compiutamente e la grande distribuzione magari non prende in considerazione alcune categorie di prodotto, ma poi è il mercato appunto che guida, la domanda che guida, e quindi su tutto questo è il consumatore che, se si esprime opportunamente, quindi se capisce il prodotto, poi va nei negozi, lo chiede, i negozi sono lì apposta poi per strutturarsi e per venderlo. Quindi il più è capire il prodotto, capire la tecnologia, capire le potenzialità e capire se fa al caso del consumatore. Prima abbiamo parlato del caso Nokia Microsoft, e molto spesso veniva citata da entrambi gli amministratori delegati, Elop di Nokia e Ballmer di Microsoft, la parola ecosistema. Anche nei prodotti esiste un ecosistema piuttosto complesso. Saluto Davide Rossi, che è con noi nel nostro studio, che è direttore generale dell'AIRES, che è l'associazione italiana dei retailer di elettrodomestici, insomma di elettronica di consumo. Io ho detto la parola retailer perché voi la utilizzate, ma voi siete rappresentanti della grande distribuzione. Rossi, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. AIRES rappresenta 1700 punti vendita, che nel territorio italiano che cosa significa questo? Chi siete? Beh, significa che c'è una grande rappresentanza e riesce a raggiungere gran parte del paese, alcune volte con dei punti di vendita molto grandi che si trovano o da soli o all'interno di centri commerciali. In altri casi si tratta di punti di vendita più limitati nello spazio, ma con un'alta specializzazione. Questa è la caratteristica dell'associazione nostra. Poi ci sono altri rivenditori, quelli che vendono ad esempio anche cibo e altri prodotti, non sono rappresentati all'AIRES. La nostra associazione è soltanto quella delle 7 grandi catene che sono specializzate nella rivendita di elettrodomestici. Catene di elettronica di consumo. Il mercato italiano come è fatto, in estrema sintesi? Cioè, voi quanti consumatori raggiungete? È un mercato moderno, un mercato frammentato, un mercato un po' vecchio? Ma devo dire che se facciamo un paragone con altri segmenti del mercato della rivendita, non siamo così indietro rispetto ad altri paesi europei. Se facciamo un paragone, ad esempio, con l'alimentare, è vero che l'alimentare, l'agroalimentare in generale, è uno degli elementi di forza dell'Italia, delle 100 città, quindi c'è il Norcino che ti vende il prodotto speciale e quindi continuerà sempre a esserci quel prodotto specializzato, e quindi i supermercati in certe zone non riescono a penetrare con certi prodotti. Per quello che riguarda noi invece stiamo andando bene, sono previste anche ulteriori aperture nei prossimi anni, il pubblico si dimostra sempre più interessato a un negozio altamente specializzato dove può confrontare non soltanto i prezzi ma anche la qualità dei prodotti, il modo in cui vengono proposti. Se devi scegliere un televisore, la prima cosa da fare è vederne 5 e vedere quello in cui lo stesso programma è più luminoso e lo vedi meglio, quindi è necessario proprio poter confrontare. Quindi questi nostri negozi diventano quasi degli showroom in cui il pubblico va e confronta. Ecco, a proposito di questo, Gianfranco, è consigliabile sempre, visto che ultimamente parliamo anche molto spesso di commercio elettronico, e rimane sempre il fatto che in molti casi i prodotti forse è meglio, se non toccarli, comunque insomma avvicinarli. È sempre utile andare nel punto vendita, e soprattutto i punti vendita sono, qua arriviamo a un altro nodo, pronti e preparati per accogliere i clienti? Allora, per quanto riguarda il discorso degli acquisti online, gli acquisti online sono tanto più facili quanto più il prodotto è standard. Quindi se noi sappiamo che compriamo un litro di latte, e quel litro di latte conosciamo anche la marca, e sappiamo che la qualità è quella, è facilissimo comprarlo e sarà un acquisto ripetuto. Questo non è così chiaramente per elettronica di consumo. Un TV si acquista mediamente ogni 10 anni, quindi non è un acquisto così ripetuto, così frequente, e le gamme sono diventate molto molto ampie. Quindi qui parlo proprio anche da consumatore, il mio consiglio è quello ovviamente di vedere, toccare, e molte volte anche farsi consigliare O da un addetto vendite competenti o da un amico evidentemente competenti, per chi non ha tutte le competenze in sé, perché districarsi nella gamma e nelle gamme di tutti i produttori è molto difficile. Parlando di televisori, per esempio, un punto vendita di medie e grandi dimensioni, tra quelli per esempio associati ad Aires, ha un numero di circa 200 referenze per quanto riguarda i TV. Vuol dire che chi deve uscire con un TV solo, perché ne comprerà soltanto uno, deve incominciare a fare una selezione tra 200. Chiaramente un po' si scartano perché non sono del pollicciaggio giusto, un po' non piacciono, però 10 alla fine ne restano sempre. È difficilissimo fare una scelta di questo tipo online, mentre gli acquisti online sono molto più indicati per chi ha già piena consapevolezza su quello che vuole. Se io quello che cerco dal mio sistema distributivo è un servizio, diciamo, di logistica, quindi io so già che voglio quel prodotto, il prezzo mi va bene, portatemelo a casa, ecco, l'online è sicuramente il canale più comodo. Quello che io ritengo che sia veramente vecchio, e questo sì lo dico e non più al passo coi tempi, è il giro delle 10 parrocchie che ogni consumatore di elettronica di consumo medio fa prima di acquistare un apparecchio. Cioè quando i differenziali di prezzo sono in alcuni casi di 3, 4, 5 euro tra punto vendita e punto vendita, io vedo ancora un sacco di persone che prima di dire ok, va bene, faccio l'acquisto, magari girano 3, 4, 5 punti vendita spendendo molto più di benzina e di tempo di quanto poi non riescono a risparmiare, perché la distribuzione, la grande distribuzione ormai è organizzata e i prezzi sono spesso molto livellati. Bene, adesso ci sono le informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, ci risentiamo tra un minuto. Numbers 2024. Numbers. In che anno è nato il primo telefono cellulare? Numbers 2024. Riprendiamo le 16 e 16 minuti, questo è 2024, siamo in diretta, chiamateci al nostro numero verde 800 24 0024. Oggi abbiamo molti temi che abbiamo affrontato anche nella prima parte. Dobbiamo rispondere alla domanda che vi abbiamo fatto, una domanda insomma, è una... un invito a ragionare sui numeri della tecnologia. Abbiamo chiesto in che anno è nato il primo telefono cellulare. Naturalmente dipende sempre che cosa si intende per telefonino, telefono cellulare. Comunque il 3 aprile del 1973 un tale Martin Cooper, che era direttore della sezione sviluppo della Motorola, ha fatto una prima telefonata con un telefono che pesava più di un chilo, aveva un'autonomia di 35 minuti e per ricaricarsi impiegava 10 ore. Hanno provato anche a metterlo in vendita, costava $4,000. È con noi oggi Davide Rossi, che è direttore generale dell'associazione italiana che rappresenta le grandi superfici che distribuiscono e vendono l'elettronica di consumo. Rossi, voi difatti in molti casi, visto che Gianfranco Giardina giustamente diceva spesso e capita a tutti, si fa il giro delle 10 parrocchie per andare a vedere e soprattutto capirci qualche cosa di più. E spesso, dico purtroppo, perché forse in un ecosistema complesso dovrebbero esserci più agenzie educative anche in termini tecnologici, voi siete gli unici che, ma a parte 2024, ma siamo a sabato pomeriggio, mentre tutti stanno andando in molte superfici per vedere TV e altre cose, è un po' un problema questo per sì. Voi immagino. È anche una grande opportunità, noi abbiamo fatto un calcolo così anche abbastanza approssimativo, ma insomma siamo su quelle dimensioni di grandezza, in un anno 260 milioni di persone entrano nei nostri punti vendita, quindi è interessante notare questo. Ovviamente non tutti questi ingressi generano sfortunatamente degli acquisti, quindi vuol dire un po' per questa ragione del pellegrinaggio nelle varie sedi per verificare prezzi, per confrontare, e un po' anche per curiosità, per passare un'ora vedendo delle novità per poterne poi discutere con gli amici il giorno dopo. Insomma, per tante ragioni si entra in un punto vendita. Questo per noi è una grandissima forza, perché questo ci dà la possibilità anche un po' di capire quali sono le esigenze, e molto spesso sono stati anche presentati dei questionari, ci sono anche delle forme online che abbiamo attivato, ci sono le carte di fidelizzazione, insomma ci sono tanti modi per dialogare con il pubblico. Purtroppo questo è anche un problema nella misura in cui, come questo pomeriggio, il punto vendita è strapieno, gli addetti non sono tantissimi e c'è il rischio che qualcuno si senta trascurato rassicurato o non sia contento della risposta che riceve, ma d'altronde noi non possiamo, anche per ragioni obiettive, mettere una squadra di 100 persone a disposizione per spiegare il sabato e poi il lunedì queste persone che gli facciamo fare. Quindi si cerca di intervenire in qualche caso, ci sono promoter, ci sono merchandiser, ci sono contratti a termine, sono ragazzi tra l'altro bravissimi. Io devo dire che in tutti i nostri negozi si trova in generale un'atmosfera di grande cordialità, di disponibilità, di passione, e questo è ottimo. Però naturalmente di fronte a una massa così grande di persone che arrivano è molto difficile soprattutto dare una risposta sabato pomeriggio. Sì. Col suggerimento che io avevo infatti dato in questi incontri che abbiamo fatto sul territorio lo scorso chiudere anno, chiudere sabato pomeriggio? No, al contrario, no. Chi vuole avere delle precisazioni, lo dicevamo in particolare per le persone anziane, insomma per le persone non avanzate tecnologicamente, quando c'era il passaggio dello switch off nelle varie regioni, andate di martedì mattina a farvi spiegare, siete pensionati, avete tempo, non andate al sabato pomeriggio nel momento di maggior affollamento. Quindi in certi altri giorni, e ripeto, questo lo può fare chi non ha un lavoro, chi non ha impegni, ma fortunatamente ora c'è anche molta flessibilità e c'è anche gente che ha tanti lavori, magari come te, lavora sabato pomeriggio, adesso tu puoi venire a farci lezioni a tutti quanti, ma in generale il suggerimento è, per imparare qualcosa meglio andare nei momenti di minor affollamento. Verrei con Gianfranco Giardina per essere, per starne sicuro. Rossi, tra, visto che sempre a proposito di ecosistema complesso, voi dovete gestire anche tutta una parte burocratica, rispettare un sacco di leggi e la cosa non è semplice. Tra gli appunti che io mi sono fatto, insomma, che ci siamo scambiati, ci sono due punti che mi sembrano importanti, ad esempio tutta la gestione delle garanzie e anche quella dei rifiuti, dello scambio tra un prodotto da buttare e il nuovo che voi vendete. Una legislazione tra l'altro anche molto favorevole al consumatore italiano. Questi sono due problemi di cui magari parliamo. Ce ne sono altri che, diciamo, nella vostra top 5, nella vostra top 10 sono in punta? Ma in generale devo dire tutto il sistema normativo che riguarda la distribuzione molto spesso è farraginoso. Questo è un elemento di difficoltà naturalmente quando si fa parte magari anche di strutture che si collegano con settori internazionali, cioè spiegare ai colleghi stranieri quanti ostacoli, quante difficoltà burocratiche abbiamo noi alcune volte è molto molto preoccupante. Per di più in alcuni casi invece notiamo come ci sono delle asimmetrie normative per cui qualche operatore miracolosamente può avere dei vantaggi gestionali, amministrativi, delle semplificazioni molto forti e su altri settori invece si insiste con i lacci e lacciuoli di cui parlava già Guido Carli tanti e tanti anni fa. Ecco, purtroppo tante volte ci troviamo di fronte a questo genere di impegni, a questo genere di responsabilità, a questi controlli. Basta guardare la vicenda dei sacchetti biodegradabili che ci ha riguardato negli ultimi mesi del 2010. Ecco, lì fino all'ultimo giorno noi non sapevamo quale sarebbe stata la norma e ancora adesso non è stato promulgato un decreto che precise in maniera chiara cos'è biodegradabile, quindi noi si cerca di andare con buon senso, ma ancora in questo momento stiamo muovendoci in un settore che apparentemente è stato fortemente regolamentato, ma che in verità manca di quelle specifiche che ci consentono di essere certi di essere esattamente in linea con le norme. Io ho citato la garanzia perché molti ascoltatori potrebbero pensare, ma che cosa c'entrano i rivenditori con la garanzia? Perché la garanzia è una cosa che mi dà il produttore. Gianfranco, questo ancora accade, credo che sia uno degli ambiti dove c'è maggiore confusione ancora oggi dopo tanti anni che la norma oramai è entrata in vigore ed è pienamente operativa. La garanzia viaggia normalmente su due binari, esiste una garanzia convenzionale che è quella offerta come servizio di marketing, diciamo così, dal produttore nei confronti dei propri consumatori, ripeto dal produttore, no? Ed è quella che viene anche chiamata non a caso garanzia limitata, cioè è entro determinati limiti che stabilisce unilateralmente il produttore. Per esempio può essere il primo anno è completa, il secondo anno soltanto le parti e non la manodopera, eccetera eccetera, e è quella che normalmente si va a si ottiene, cioè il cui servizio si ottiene se ci si rivolge direttamente ai centri di assistenza autorizzati. Esiste invece la garanzia cosiddetta di legge, e questa è quella su cui tutti i beni di consumo, non l'elettronica di consumo, ma tutti i beni di consumo sono soggetti, che è una garanzia che deve essere riconosciuta dal rivenditore, cioè dall'unico che ha stretto di fatto un contratto di compravendita col consumatore. Da questo punto di vista anche qui esistono dei limiti, non è che è semplicemente tutto garantito. La durata è 2 anni, però con molte complicazioni, cioè con un regime nei primi 6 mesi di maggiore tutela del consumatore, diciamo così, che poi nei successivi 18 mesi invece cambia leggermente, con alcune norme, alcune regole. Va detto ovviamente che è una garanzia, anche quella di legge, che deve essere riconosciuta dal rivenditore, che riguarda solo e soltanto i vizi di fabbricazione, cioè i difetti di fabbricazione o la cosiddetta non conformità, non certo se un telefonino cade per terra poi può essere riportato e riparato in garanzia. Questo deve essere chiaro ed evidente. Ma detto questo, come dicevi giustamente tu, sono in pochi quelli che ancora hanno o inquadrato perfettamente la questione. Alcuni sanno che esiste questa garanzia di legge e quindi 2 anni per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo vanno dal rivenditore e chiedono conto, e invece anche qui ci sono dei limiti. Altri invece non lo sanno affatto e magari in alcuni casi, ed è capitato magari non tra associati Aires, ma conosco, diciamo, retailer che vendono scrivendo sullo scontrino che la garanzia è 1 anno. Ovviamente quella di legge resta, non è alienabile, però scrivere che la garanzia è 1 anno, e poi in realtà è soltanto quella convenzionale, sì, è un po' sui generis, diciamo così. Sì. Rossi, se mi consenti su questo di fare una precisazione, perché è solo però un complemento di quello del quale stiamo parlando. Da qualche mese le nostre imprese associate, nel momento in cui consegnano il bene, danno anche queste informazioni in maniera assolutamente chiara e precisa. Questo è stato, da un lato, va bene, una però mossa. Effettivamente in pochi, sì, questo è certamente un contributo per dire al consumatore. Noi informiamo in maniera chiarissima, in tutti i siti dei nostri associati c'è, nel sito dell'ARS c'è. Questo è stato anche seguito degli impegni che sono stati assunti di fronte all'autorità per le garanzie del mercato, l'antitrust, a seguito di una verifica che è stata fatta dall'antitrust nei confronti di molte nostre catene, che tra l'altro si è conclusa senza nessuna sanzione. Sì. Quindi noi eravamo su questo. In effetti voi, io ho detto appunto che secondo me in pochi sanno che è così, cioè che il rivenditore è, diciamo, il responsabile della garanzia. Cosa notate sul punto vendita? No, tutti sono informati. Beh, la gente arriva in punto vendita e ci butta sul bancone il prodotto che funziona. Quindi mi sembra abbastanza frequente che succeda questo. Dunque, giustamente lo fa, magari può appoggiarlo più educatamente o buttarlo con più violenza, però insomma il diritto c'è e noi siamo pronti assolutamente a ottemperare agli obblighi. Sentiamo Andrea, poi continuiamo su questo punto anche su un altro, perché ad esempio quello dei rifiuti è un altro punto interessante. Andrea da Roma, buongiorno. Buonasera. Mi sentite? Certo, ascoltiamo. Ah, ok. Io riguardo alla domanda di prima, sul fatto se i prezzi calano o meno, volevo intervenire. Prego. A mia opinione i prezzi non calano. Io sfoglio spessissimo, mi arrivano in posta tantissime catene di pubblicità di tantissime catene di rivenditori consumer, quindi vedo che i prezzi rimangono assolutamente gli stessi. Cambia leggermente il prodotto, ma praticamente fanno, se decidono di fare come entry level 600 euro per un televisore, uno troverà a 600 euro, prima c'era, non so, un 28 pollici, poi ce ne sta uno un po' più grande leggermente, ma non troverà mai quello che prima costava 600 euro a 500 o a 400, e viene proprio levato dalla lista. Chiarissimo, Andrea, grazie di questa considerazione e domande. Tra poco facciamo rispondere a Gianfranco Giardini, adesso abbiamo alcune notizie. Digital News. HP ha presentato 2 smartphone e il tablet touchpad con sistema operativo webOS, la piattaforma di Palm, che lo scorso anno è stata acquistata da HP. Uno degli smartphone uscirà negli Stati Uniti a primavera, mentre il tablet è atteso forse anche in Europa per l'estate. Digital News. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo dedicato una parte della trasmissione alla musica online in streaming, musica illimitata ad un costo mensile molto basso. Ora arriva anche Telecom Italia, che ha lanciato Cubo Musica, un servizio dedicato esclusivamente ai clienti di Alice, che oggi sono circa 5,5 milioni. Questa non è certo una caratteristica positiva di questo servizio, perché non è quindi un servizio trasportabile da computer a computer. Il prezzo però sarà molto competitivo, perché a regime sarà di 2,99 euro, ma fino a giugno sarà gratuito e costerà 1,49 euro per altri 4 mesi. Altra caratteristica molto interessante è che l'abbonamento si potrà pagare in bolletta. A proposito di musica online in streaming, ieri pomeriggio la web radio Pandora, che abbiamo citato sabato scorso e che sta avendo un grande successo negli Stati Uniti, ha presentato domanda per la quotazione in borsa sulla scia di una euforia, forse un po' troppo esagerata, che sta travolgendo molte aziende della Silicon Valley. Numbers. 2024. Numbers. Qual è il tasso di penetrazione della fibra ottica oggi tra le famiglie italiane? Numbers. Numbers. 2024. Quasi l'ultima parte di 2024, ormai abbiamo talmente tanti pezzetti che faccio confusione anche io. Siamo in diretta, il nostro numero verde è 824-0024, se volete scriverci un sms 349-238-6666. Naturalmente vi ricordo che esiste anche una pagina Facebook che di solito non utilizziamo in diretta, anche perché i computer della diretta, ho scoperto, sono stati bloccati su Facebook, perché evidentemente qualcuno perdeva un po' troppo tempo su Facebook, ma insomma una pagina che utilizziamo durante la settimana anche per rilanciare i temi. Oppure potete scriverci anche durante la settimana al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Vi abbiamo domandato qual è il tasso di penetrazione della fibra ottica in Italia, è un tema di cui si parla spesso. Siamo fermi all'1,5%, quasi tutti concentrati in poche città, Milano in primis. Giusto per avere un'idea di cosa succede nel mondo, in Corea del Sud siamo ad un tasso di penetrazione del 53%, in Giappone siamo al 35%, altri paesi vicini naturalmente sono più simili a noi, Stati Uniti 7,5%, Francia attorno al 2%. Stiamo parlando di elettronica di consumo, poco fa Andrea ci diceva che secondo lui i prezzi non aumentano. Non so, io mi fido molto di Gianfranco Giardina. Non scendono. Non scendono, cosa ho detto? Non aumentano. Vabbè, comunque si stanno fermi. No, allora, diciamo nel breve termine, forse questo può anche essere vero, no? Che in un orizzonte temporale corto magari si vedano i nuovi prodotti arrivare allo stesso prezzo di quelli precedenti. Quindi in senso stretto non scendono, è il valore di questo intrinseco di questi prodotti in realtà che sale, e quindi il loro costo scende perché vengono sempre aggiunte nuove caratteristiche, aumenta il pollicciaggio, aumenta la risoluzione, abbiamo visto tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Cioè un po' come quando ti dicono la DSL costa sempre così ma aumenta la banda. È chiaro. A me effettivamente mi piacerebbe che costasse anche un po' meno. Però, vabbè. Sono d'accordo, però poi questo qui, questa dinamica nel medio termine poi accade, a parte che l'elettronica di consumo credo che sia stato l'unico mercato, quello di quelli che io così ho osservato anche da consumatore, che non ha subito alcun tipo di incremento di prezzo col passaggio da lira all'euro, e quindi questo va assolutamente considerato, mentre sappiamo sui beni di consumo cosa è successo in moltissimi altri casi. Ma poi per esempio faccio un caso, 10 anni fa, e quindi stiamo parlando proprio della finestra temporale che dicevamo prima essere la frequenza d'acquisto media di un TV, ecco, 10 anni fa chi comprava un TV da 32 pollici top di gamma, ma da 32 pollici a tubo catodico, quindi una cosa che oramai adesso consideriamo pressoché un rottame, spendeva da 5 milioni e mezzo di lire per prendere un qualche cosa che tecnologicamente faceva soltanto la visualizzazione dei canali analogici. Oggi con una cifra nettamente inferiore si prende un TV probabilmente 42, 50, 52 pollici, che magari ha anche la presa di rete, che magari si collega a internet, che sicuramente ha il digitale terrestre, e quindi è una macchina completamente diversa con un prezzo molto inferiore, anche senza contare l'inflazione, cioè quindi anche senza contare chiaramente la perdita di valore del denaro in questi anni. Sentiamo Giacomo che ci telefona dalla provincia di Como. Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno anche ai radioascoltatori. Volevo porre una questione riguardo la garanzia che avete accennato poco fa. Io sono un rivenditore e quindi molto spesso mi scontro con questo problema sia con i clienti sia con i miei fornitori. E quello che ho riscontrato soprattutto è che se io mi presento come partita IVA mi dicono la garanzia è sicuramente un anno, non di più. Mi chiedo intanto se questo è per legge o per decisione unilaterale loro. E poi nel caso che io devo fare una garanzia di 2 anni al mio cliente, io come faccio a rivalermi sui miei fornitori che comunque mi fanno sempre la garanzia di 1 anno o sulle case produttrici? È chiarissimo, Giacomo, grazie e buon ascolto. Dunque, Rossi, io posso già anticipare a Giacomo che è giusto che sia così, perché chi ha la partita IVA può utilizzare solo la garanzia di 1 anno, però visto che Rossi è anche un avvocato, sa molto bene come stanno le cose. Anche ha dovuto studiarsi queste cose in maniera approfondita, sì, perché certo. La normativa è molto complicata. Sì, è proprio così. In verità la previsione della garanzia legale di 2 anni, anziché poi diventano 2 anni più 2 mesi, perché sono 2 mesi di tempo per rendersi conto del guasto, quindi la garanzia è effettivamente di 26 mesi, è prevista dal cosiddetto codice del consumo, che è una normativa emanata nel 2006 sulla base di una direttiva precedente, e quindi va a vantaggio dei consumatori, quindi dei cittadini privati. Quando qualcuno ha partita IVA e quindi scaricherà poi dalle tasse questo acquisto che viene fatto, naturalmente a quel punto è un operatore economico e quindi ha la garanzia di 1 anno, che è quella prevista dal codice civile. Quindi è tutto regolare quello che è accaduto. Questo. Per quello che riguarda l'indicazione che dava questo signore, questo rivenditore, è vero, mi sembra l'articolo 131 del codice del consumo prevede il diritto di regresso, cioè il rivenditore che spende per riparare il bene ha diritto a rivalersi nei confronti del produttore di quel bene. E quindi questa possibilità gli è conferita, naturalmente questo deve essere fatto, dipende anche dai rapporti di forza tra rivenditore e negoziante, molto spesso questa cosa si risolve o con delle note di credito o in altra maniera. Certo, uno più grande è più possibilità di rivalersi. Altro problema, i rifiuti elettronici. Quando io vado in negozio vedo sui cartellini che c'è scritto contributo RAE. Allora, diciamo una parola in 30 secondi che cosa sono questi RAE. Sì, ma i RAE sono tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si è ritenuto già da parecchi anni in sede di Unione Europea, poi con recepimenti nei vari paesi, di considerare questo tipo di rifiuti particolarmente delicati, perché in alcuni casi possono contenere anche prodotti che sono tossici. La cosa nasce originariamente, direi forse proprio dal tubo catodico dei televisori, che se rotti potevano rilasciare queste polveri, ma in generale tutti i prodotti, se non trattati adeguatamente, possono essere altamente inquinanti. E poi c'è l'esempio tipico, no, della lavastoviglie, della lavatrice abbandonata nei fiumi o in campagna. Insomma, questa è una cosa orribile che naturalmente tutti quanti vogliamo. Questa normativa, che devo dire, Gianfranco, se confermi, mi pare che in Italia sia particolarmente favorevole al consumatore finale. Ma diciamo, recepirebbe quelle che sono le indicazioni comunitarie. Sì, poi sappiamo che no? Le cose vengono recepite sempre o meglio o peggio rispetto. Diciamo che il consumatore ha il diritto di vedersi ritirato un prodotto omologo a quello che sta acquistando al momento dell'acquisto, quindi il vecchio prodotto, il cambio, la lavatrice. L'altra deve essere ritirata senza costi. Un costo in realtà c'è, è il costo appunto del contributo RAE che paga chiunque acquista un prodotto nuovo in questo momento. In realtà su tutti i prodotti è applicata un sovrapprezzo. Un piccolo sovrapprezzo, devo dire, che in realtà è pensato per ricompensare il sistema dei costi che ci saranno al momento dello smaltimento di quel prodotto che io nuovo. Pago indipendentemente se porto indietro il vecchio. Sì, diciamo. Assolutamente sì. Il discorso del ritiro è assolutamente strategico per evitare che la soluzione più semplice, che poi i sistemi scelgono sempre la soluzione più semplice, sia quella di lasciare la lavatrice sul viottolo di campagna, come dicevamo prima. Quindi siccome è diritto, senza nessun pagamento, di chiunque compri una lavatrice vedersi ritirata la sua vecchia, ovviamente lavatrice, che nessuno pensi di comprare la lavatrice e già che ci sono rendo il frigorifero, ecco, perché quello assolutamente non funziona. Quindi non è un centro di smaltimento rifiuti in generale, però acquistando ho il diritto di avere avere il ritiro. Poi dove finiscano queste lavatrici? Beh, su questo che la normativa è molto complicata, no? E non sempre la sua applicazione è perfettamente lineare. Sì, infatti Rossi, ci sono un po' di problemi perché la normativa forse è stata scritta senza guardare all'ecosistema. Sì. Ma sì, devo dire la verità, per noi questa normativa è fortemente onerosa, perché in verità la distribuzione paga tutti i costi del sistema senza recuperare nulla. Quell'ecocontributo, che tra l'altro poi è in via di abolizione da febbraio di quest'anno, quindi da adesso, per alcune tipologie di prodotti e tra breve anche per altri, non sarà più esposto, quindi non si vedrà più, non ci sarà più. Cioè non sarà più esposto. Beh, allora, il punto è che non si pagherà più, e vuol dire che nel costo del produttore ci sarà anche una spesa che il produttore dovrà sopportare per fare questo. I produttori si sono riuniti in consorzi, cosiddetti sistemi collettivi, ce ne sono una ventina quasi, i quali sono coordinati da un centro di coordinamento, e questo centro di coordinamento, con quelle risorse, dà dei premi di come dire, produttività, di capacità a coloro che organizzano delle piazzole per lo smaltimento e per il recupero. Sostanzialmente gran parte di quelle risorse ritornano ai comuni, ritornano alla pubblica amministrazione, quindi può sembrare un po' assurdo che dei soggetti privati che ricevono dei fondi dai consumatori poi li debbano versare alla pubblica amministrazione per fare un mestiere che la pubblica amministrazione già dovrebbe fare e per la quale già ha la tassa dei rifiuti. Però di fatto questo è il meccanismo che si è venuto creando, dentro il quale la distribuzione ha soltanto costi: il costo del ritiro, il costo dello stoccaggio, il costo della riconsegna. Peraltro qualcuno dice: queste sono miniere d'oro, perché si creano materie prime e seconde, come vengono chiamate, invece di andare nelle miniere si recuperano lì certi prodotti, lo zinco, alcuni si possono anche recuperare, però queste procedure di recupero sono estremamente costose, quindi non è un grande business. Eventualmente vanno a pari, ora che hanno recuperato tutto quanto, lo hanno smaltito correttamente, qualcosa non è recuperabile. Quindi abbiamo un minuto, le volevo fare un paio di domande, risposte telegrafiche. I consumatori conoscono questa normativa? Cioè che io posso portare, compro un decoder e posso portare il mio vecchio decoder? Beh, noi abbiamo fatto qualche intervento di informazione su questo, ne faremo altri. Posso anche annunciare che abbiamo realizzato, l'abbiamo girato proprio nella giornata di ieri e sarà pronto a breve, un video informativo che faremo divulgare tramite tutti i nostri siti, tramite il nostro sito, con un po' di virale e nei punti di vendita, nel quale spieghiamo esattamente tutto questo. Lo facciamo perché non vogliamo tirarci indietro, è un grave onere, stiamo operando per spiegare a livello normativo che tutto sommato stiamo pagando noi il prezzo delle inefficienze anche del sistema, però questo non ci assolutamente esonera da rispettare la legge, e lo faremo nell'interesse dell'ecologia e anche dei consumatori. Dunque, la seconda domanda gliela faccio la prossima volta che ci vediamo. Sul video non possiamo esservi d'aiuto perché alla radio non si vede. Grazie a Gianfranco Giardina. Su didei.it trovate tutte le ultime novità dell'elettronica di consumo. La prossima settimana voi vi spostate in parte. Sì, in realtà due persone sono già partite, sono già a Barcellona. Perché ci sarà il Mobile World Congress, seguiremo anche noi a Radio 24 tutte le novità che verranno annunciate, anche se non mi aspetto grandissimi annunci, come vi dicevo all'inizio della trasmissione. Grazie anche a Davide Rossi, che è direttore generale dell'AIRES. A presto, buon lavoro. Grazie, presto. 2024. E adesso l'appuntamento in collaborazione con National Geographic, canale 403 della piattaforma Sky. Questa settimana parliamo di una cosa strana, delle dighe, partendo da quella idroelettrica di Itaipu al confine tra Brasile e Paraguay. Il documentario andrà in onda su National Geographic Channel il 16 marzo alle 11.40. Il Paraná, lungo 4.000 km, è il secondo fiume più grande del Sud America, preceduto solo dal Rio delle Amazzoni. In alcuni tratti il Paraná incontra il confine tra il Brasile e il Paraguay. A un certo punto il corso del fiume è interrotto da un'immensa costruzione, la diga di Itaipu. È lunga 7 km ed è due volte e mezzo il ponte sull'Humber in Gran Bretagna. Ed è alta quanto un edificio di 65 piani. Contiene un volume d'acqua pari a 950 volte l'area di Hyde Park a Londra. Per la costruzione di questa enorme struttura è stato utilizzato un esercito di 40.000 operai e 20 miliardi di dollari, quasi 50 volte il costo della diga di Hoover. Questo è uno degli angoli più remoti al mondo. Allora perché una delle dighe più ambiziose del pianeta è stata costruita proprio qui? In tre decenni il Brasile raggiungerà i 170 milioni di abitanti e diventerà uno dei 10 paesi più popolati al mondo. Con la crescita aumenta anche la richiesta di energia. Perché non ricorrere a un elemento naturale che in Brasile abbonda? L'acqua. Dove il territorio lo consente, le dighe possono essere semplici pareti ancorate alla roccia circostante. ma il terreno che circonda Itaipu non permette questo sostegno, quindi la diga dovrà contare soltanto sul proprio peso. In ingegneria si chiama diga a gravità. Dovrà essere costruita una struttura così pesante da resistere alla pressione dell'acqua, ma per funzionare dovrà pesare 61 milioni di tonnellate. Il substrato dovrà essere molto resistente, perché ogni falla potrebbe causare il crollo della diga. Quindi la resistenza sarà cruciale. Un'analisi accurata mostra che le fondamenta sono solide. Gli ingegneri trovano un modo per risparmiare denaro. Una diga costruita interamente in calcestruzzo peserebbe più del necessario e farebbe lievitare i costi. La soluzione è una diga cava. Costruendo una diga cava si può ottenere, con la stessa quantità di cemento, una base più larga. Le pareti avranno una pendenza più lieve e la pressione dell'acqua sarà esercitata sulla base dove la diga è più resistente. Questo permetterà anche di inserire i generatori all'interno della diga, con una produzione di 90.000 gigawatt di energia all'anno. Una quantità sufficiente a illuminare una città come Londra per 3 anni. La diga più alta del mondo si trova in Tagikistan ed è alta 300 metri. La quarta diga più alta del mondo è quella italiana del Vajont, alta 261 metri e ancora in piedi, nonostante il disastro del 1963. Ma quali problemi provocano le dighe sul territorio circostante, in particolare nel territorio italiano? L'architetto Costanza Pera è presidente della seconda sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il territorio italiano è molto densamente popolato e pieno di attività, quindi l'occupazione di suolo che si determina col bacino idrico è in primo luogo uno dei problemi. Certamente l'arco alpino è il primo riferimento del sistema delle dighe italiane, in particolare di quelle idroelettriche, ma non ci dobbiamo dimenticare anche tutte le dighe del centro e del sud Italia, della Sardegna, della Sicilia, che si sviluppano in un ambiente ovviamente dove ci sono delle valli che possono consentire l'accumulo di acqua, ma che non hanno poi caratteristiche tipicamente montane. Abbiamo un problema di microclima legato alla creazione di questo grande bacino idrico che prima della formazione della diga non c'era, quindi si creano delle modificazioni dell'umidità locale che possono dar luogo a una serie di conseguenze di varia natura. Si crea un problema per la spinta dell'acqua accumulata nell'invaso di microsismicità indotta, locale ovviamente, che deve essere controllata dai tecnici di questo settore, e poi il problema più rilevante, che ha dato luogo in particolare negli anni 90 alle maggiori contestazioni e preoccupazioni per la costruzione degli invasi e per la gestione degli invasi, è stato il problema del depauperamento delle risorse idriche, cioè dei corsi d'acqua che venivano sbarrati dagli invasi. Questo problema è stato affrontato con la disciplina del minimo deflusso costante vitale, che è un termine un po' complicato, ma che significa che per ogni bacino interessato da una diga si stabiliscono delle regole che dovrebbero consentire all'ecosistema fluviale di restare con un suo livello di tecnicamente naturalità. Oggi spesso le notizie di grandi impianti, di grandi dighe arrivano da paesi in via di sviluppo. In Italia stiamo ancora costruendo o costruiremo nuove dighe? C'è stata una stagione in cui si sono costruiti moltissimi invasi in Italia, corrispondente fino al anni 60-70, poi si pensi all'intervento della Cassa del Mezzogiorno. In questo momento c'è qualche progetto di vecchia diga in corso di aggiornamento, ma che non mi sembra che si riesca a concretizzare in progetti effettivamente cantierabili. E però poi c'è il grande problema di un numero discreto di invasi già costruiti, anche pieni d'acqua spesso, che non vengono utilizzati appieno. Questo è il caso per esempio della diga del Menta in Calabria, che dovrebbe dare l'acqua a Reggio Calabria. Allora, il problema che si pone è che noi abbiamo modificato, alterato un ecosistema, un ambiente naturale, per avere un beneficio per le popolazioni o comunque un beneficio in qualche termine. Invece qui si ha il caso di una modificazione dell'ambiente naturale che non produce nessun risultato. Digital News. Prima di salutarci, alcune notizie della settimana. A proposito di fibra ottica, abbiamo parlato poco fa della penetrazione. Questa settimana l'autorità per le comunicazioni ha approvato la sperimentazione in alcune città italiane dell'offerta in fibra ottica 100 megabits di Telecom Italia. Gli operatori alternativi potranno utilizzare la rete per fare offerte analoghe e avranno uno sconto all'ingrosso del 12%. Il servizio partirà a breve a Roma, Milano, Catania, Venezia, Torino. Si aggiungeranno poi Bari, Genova e Bologna entro la fine dell'anno. È possibile prevedere che il prezzo sarà attorno ai 60 euro al mese, IVA inclusa. Il gruppo Anonymous, che difende la libertà di espressione su internet, ha annunciato per domani alle ore 13 un attacco a siti governativi italiani. Mentre la scorsa settimana il target annunciato era governo.it, questa settimana l'obiettivo non è stato dichiarato, il che rende più difficili le contromisure tecniche prese la scorsa settimana dai tecnici avvertiti dalla Polizia delle Comunicazioni. Altro appuntamento per domani alle 20, ora italiana, verrà svelato il nuovo 747-8 Intercontinental, nuova versione del mitico jumbo della Boeing. Sul sito del costruttore americano si potrà vedere l'evento in streaming. Secondo Boeing l'aereo consuma l'11% in meno rispetto al rivale Airbus A380, ancora però non si sa quando l'aereo farà il primo volo. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Vi ricordo che la prossima settimana saremo in diretta dalla BIT, Fiera del Turismo a Milano, quindi veniteci a trovare alla Fiera di Rho. Saremo proprio lì con lo stand in diretta. Parleremo di telefonia mobile perché da lunedì inizia a Barcellona il Mobile Congress, quindi ci sarà sicuramente materiale sul quale ragionare. Vi aspettiamo anche con la vostra voce, chiamateci in diretta. Io sono Enrico Pagliarini, mi potete raggiungere scrivendo a 2024@radio24.it. grazie a Paolo Corleoni, che si è occupato della parte tecnica e creativa di questo programma, Viola Bottoni e Giorgio De Luca in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana, tra poco GR24 e poi a seguire Carlo Genta con lo sport. 2024.